commerciale. In tutta la nazione sentirai un nuovo nome girare in alta rotazione. Fidel the family, fermali, se vuoi credici, se poi fregaci, guardaci, maniaci di beat per terretti in pies, campioni disarmanti, mandano per stracci, e cacci nuove rime, andando le prime, con pinne, fucile d'occhiali, ma te che ti cali, rapporti vocali, voci contorni rari, di contorni vari, stili senza pari, di valori pali, impili nuovi stili, flow con novi, pop doc, toc toc, bussa alla tua porta, aspettati un'evoluzione, in rapida congiunzione, con l'evoluzione del suono ai tuoi occhi, ora chiedi un'ora d'aria, per te ausiliaria, perché è l'aria che ti manca, solo ora ti rendi conto che questo mondo non è nostro, architetto, che disegno hai fatto? Tu entri o tenti, momenti menti, altri perdi. Per chi cerchi e poi ti spingi oltre, vedi la coltre molte altre volte. Solo chi scorge che se ne accorge, ma non morde. Centri, certi altri ricenti, altri manco li vedi. E poi li credi veri ereditieri. Eri tu ieri, siamo seri, saranno sei. O forse sei te che sei fuori strada. Ma guarda che manca la mappa e la rotta. Per la vetta incerta perché c'è stata indotta. Manca un motto, manca il lavoro di squadra e la fotta. In fondo ti fotto, forse te frega che la congrega prega. Alla ricerca di una figura mega, ma l'icona media. Rappresenta malapena la nostra storia. Cambia aria, varia, il sistema varia. La routine è il mio team. Che sorseggia mic e gin. Cambia beat, cambia book. La rima è stile, fa il reboot. E lo login, mettici il mio nome. Credenziali degni, editali, definizioni. Ieri editavi sacre, abitavi pani hardcore. Yo, preparati ora per un po' di softcore. Swanny style. Questo un giorno sarà la nuova stele di una religione che si basa su un battito, ma non del cuore. Su mic e gin, fratello, sì, sì. Pressano i pressi, avresti ancora. Ma quanto ancora, fosse scuola. La sarebbe sola, razzo le ringrazia, la come il random, resti svuoto, esci dai tuoi fugo, mi sei furbo, fugo dubbi sul nascere, dubiti, crescere per te, credere per vedere, e vendere per credere, vediamo, intanto veniamo a noi, speriamo poi, per chi saremo sanno guai, fatti tuoi, prepara la lista, che prima un macete, eccetera, te cita, ma tanto noi che ci fa, ma tocco per monte, dalla fonte non mi metto, o io l'avevo detto, ma fossi matto che l'ammetto, che se lo scordo poi mi ci metto.